Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo delle feste ritorniamo alle catechesi normali, anche se visibilmente in piazza è ancora festa. Con le catechesi ritorniamo, come detto, al filone iniziato prima. Abbiamo parlato dapprima dei 12 apostoli, poi dei discepoli degli apostoli, adesso delle grandi personalità della Chiesa nascente, della Chiesa antica. L'ultima volta avevamo parlato di Sant'Ireneo di Lione, oggi parliamo di San Clemente Alessandrino, un grande teologo che nacque probabilmente ad Atene intorno alla metà del secondo secolo. Da Atene ereditò quello spiccato interesse per la filosofia che avrebbe fatto di lui uno degli alfieri del dialogo tra fede e ragione nella tradizione cristiana. Ancor giovane, egli giunse ad Alessandria, la città simbolo di quel fecondo incrocio tra culture diverse che caratterizzò l'età ellenistica. Lì fu discepolo di Panteno, fino a succedergli nella direzione della scuola catechetica. Numerose fonti attestano che fu ordinato presbitero. Durante la persecuzione del 202-203 abbandonò Alessandria per rifugiarsi a Cesarea, in Cappadocia, dove morì verso il 215. Le opere più importanti che di lui ci rimangono sono tre: il Protrettico, il Pedagogo e gli Stromati. Anche se non pare che fosse questa l'intenzione originaria dell'autore, è un fatto che tali scritti costituiscono una vera trilogia, destinata ad accompagnare efficacemente la maturazione spirituale del cristiano. Il Protrettico, come dice la parola stessa, è un'esortazione rivolta a chi inizia e cerca il cammino della fede. Meglio ancora, il Protrettico coincide con una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che si fa esortatore degli uomini affinché intraprendano con decisione la via verso la verità. Lo stesso Gesù Cristo si fa poi pedagogo, cioè educatore, di quelli che in forza del battesimo sono ormai diventati figli di Dio. Il medesimo Gesù Cristo, infine, è anche didascalo, cioè maestro.